vorrei fare il radio, quello di andare a dire quanto ci sto arrivando, guarda adesso, aspetta che cambio il microfono, aspetta che cambio il radio, aspetta che metto l'altra antenna, va bene lo stesso, già fra. Guarda, quando era avanti ieri, ero in 80 metri, quindi a 3.570, una cosa del genere. E c'erano di Roma e un altro che stavano parlando, facendo un discorso tranquillo. Lui si ricordava di quando era militare, ragazzo, si è pentito di non essere rimasto, perché sarebbe già stato in pensione, perché ci hanno meglio. Adesso non lo so, prima avevano l'uscita un po', come si dice, andavano prima in pensione, dai, in parole povere. Adesso non lo so se anche per loro è cambiato. Quindi facciamo questo tranquillo, anche su quelle frequenze. Quindi ognuno fa un po' quello che si fa, perché alla fine tutti dobbiamo passare il tempo, che sia di tecnica o che sia di, a volte anche di politica, che sia di altre cose, d'agricoltura, o sono gli stessi discorsi che faresti, diciamo, con gli amici, magari al bar o parlando con altre persone, ecco. L'importante è poterli fare in tranquillità, con educazione e anche con un pochino, ecco, di informazione su quello che dice. Sì, beh, certo, ma non è che non si può chiedere un controllo, ma io ho notato che c'è gente che non fa mai un question, perché io non lo considero question, quelli che entrano e parlano solo esclusivamente di queste cose, quanto ci sta arrivando, come la radio, guarda adesso, guarda poi, ma insomma, questo non è fare radio, questo qui è dare fastidio, secondo il mio modo di vedere. Poi il fatto che mi chiedi un controllo, te lo do, basta, va bene, però ci sono delle persone che muovono quasi esclusivamente con questi discorsi così assurdi, ecco cosa intendo dire. Poi già qua. Beh, probabilmente molte persone non riescono ad afferrare, diciamo, quello che si dice, di cosa si sta parlando, e quindi chiedo controlli. Ma normalmente il fatto della gente che chiede controlli, io personalmente li do sempre a tutti, e qualche volta mi chiedo, più che altro li chiedo perché mi occupo anche di autocostruzione, di apparati, soprattutto quando sono nuovi, e quindi devo un po' vedere un po' come la situazione. Però io ripeto, io li do sempre. Certo, e questo capita solo in 27, devo dire, mi meraviglia il fatto che ci sia tanta gente che a forza di fare controlli, a forza di migliorare, c'è sempre più male. Io, diciamo, se c'è un controllo lo faccio al fine di migliorare, perché ci sono proprio delle nozioni sbagliate. Ad esempio, se uno parla dell'AM, quando mi faccio da pietra, che in tempi moderni viene chiamata antica modulazione dagli esperti. Perché? Perché confondono il fatto di una modulazione oltre il 100% come una buona modulazione, così faccio il timpani a tutti. Però è sbagliato, perché la modulazione deve rimanere sempre nel 20% del 100% oppure del 60%, va benissimo, del 70%, ma non mai oltre il 100%, perché diventa incomprensibile. Beh, secondo te c'è gente che la capita ancora questa cosa? Ma voi no. Solo guardando un analizzatore di spettro poi si vede che occupazione di banda hanno queste persone e quanti danni producano come armoniche di terzo, quarto, quinto livello e così e compagnia cantante. Però Gallo e spiega, devo dire. Oh yeah. Avanti, chi sei, Gianni? Ehi, buonasera. Io non potevo entrare, ma mi stavo ascoltando, ma non potevo entrare. Esatto. Alleluia. Quindi da adesso mi sono sdraiato 5 minuti perché sono avanti. Beh, hai fatto bene, prima le cose più importanti, poi il baracchino. Lui viene sempre dopo qualsiasi funzione, qualsiasi attività di familiare, eccetera, già lo prendo, ci mancherebbe altro. E così è già, e cosa ci vuoi fare? Vabbè, magari tante volte, o forse perché ci sentiamo troppo spesso, che ci diciamo sempre le stesse cose, già sarà per quello anche, non lo so. Ma tanto sa che la gente non trova argomenti, non trova di cui parlare, ma, e allora ti dà quelle cose lì. Quanto ti sta arrivando, guarda adesso che ho aumentato, e così via, tutti questi discorsi così. Va bene, e io Gianni, dai, dici qualcosa, dai. No, stavo ascoltando, ho detto, vabbè, fare le prove giù ci sta, perché se uno cambia l'antenna, mette il microfono nuovo, giusto, certo potrebbe essere tutta la sera così, è normale, poi si deve anche impostare un discorso e portarlo avanti, e poi da una cosa viene l'altra, certo, è giusto che sia così. Io o non mi hai capito tu, io ho detto che ci sono delle persone che quando entrano in frequenza parlano quasi esclusivamente di quei discorsi lì, quanto ci sta arrivando il controllo. Io non ho detto che non si deve dare, che non si deve dare un controllo si deve dare, certo, ma se te lo do adesso controllo è tutto che me lo chiedi anche fra un'ora, oppure me lo chiedi domani mattina, per quale motivo? Sono andato ieri, stai riuscendo bene, basta, lascia tutto così, è inutile stare lì a pasticciare. Appunto è quello anche che intendeva Gianfranco poc'anzi, perché non va bene, ma lo metti e poi alla fine esci sempre più male, e il discorso era questo, e l'ha improntato su questo, questa idea qua, o già avanti Gianfranco. Sì. No, poi bisogna anche lì fare del distinguo, attenzione. Se io vado su un canale, ce ne sono, mi sposto su un canale, come è già successo, con un'altra persona che ha le competenze per poter cambiare dei dati puramente tecnici, è chiaro che alle altre persone che magari si spostano anche loro sul canale, queste cose non interessano e quindi tendono sempre a spostare l'argomento su altro, non capendo che magari tu stai configurando determinati apparecchi e che quindi puoi dare sì un controllo, però stai anche facendo delle cose complicate. Questo a volte succede anche ad esempio negli apparati digitali, c'è una marea tale di configurazioni in cui se c'è un interlocutore che c'è qualche problema, se dai qualche dritta, verifica, guarda, tocca questi pulsanti, imposta questi livelli, eccetera, eccetera, sono anche cose un pochettino lunghe e anche delicate in cui bisogna essere precisi, perché ogni errore poi chiaramente può anche inibire la funzione della radio, se ti interessa, e questo soprattutto negli apparati moderni. Quindi si può fare benissimo un discorso tecnico, noi abbiamo fatto tanto, però bisogna anche dall'altro capo del filo avere qualcuno che ti dia retta e che riesca a capire quello che stai dicendo. Tutto lì, e poi se a qualcuno non piace cambia canale, ma ce ne sono, ripeto, tanti, oramai prima i 40 sembravano pochi, adesso invece sono sempre lì, sempre lì, mai dire mai, riprendi già. No, io sono diverso, se è una cosa per dire non la conosco, ascolto, mi piace imparare, perché tutti hanno da imparare, quindi se una cosa non la conosco, magari chiedo, se mi intrometto nel discorso, non è che quello di adullarmi le cose ed è ignorante, bisogna sempre imparare nella vita. Finché si è in vita c'erano tante cose da imparare, anche perché, come stavo dicendo a Giulio, il mondo gira a una velocità oramai che è difficile starle dietro. Riprendi Giulio. Beh, certo, il mondo ha una velocità supersonica, mentre noi siamo ancora al rallentatore in certe cose. Sì, ma è così, ma ovviamente è quello. Io comunque ho sempre detto, e Gianni lo sa benissimo, che la radio è nata soprattutto per discutere di fatti tecnici soprattutto. Io ho sempre detto questo, però la gente, se non è interessata a parlare di cose tecniche, però io non sono interessato nemmeno a sentire uno che ogni poco, ogni giorno, tutte le volte mi viene a dire, come sto dicendo, aspetta che provo a mettere questo microfono, aspetta che adesso attacco questo. No, va bene, te l'ho già detto, abbiamo fatto la regolazione. Ti dico, va bene così, tranquillo, e allora accontentati, è inutile che tu domani cerchi di manomettere tutto quello che hai in mano e poi inizi da capo sempre la solita storia. Ecco, questo secondo me è fastidioso. Poi, se mi chiedono un controllo, glielo do ben volentieri, non è che non glielo rifiuto, ci mancherebbe altro. Però, secondo me, questi discorsi non si dovrebbero fare, o perlomeno si dovrebbero fare qualche volta, proprio quando ne hai veramente necessità. Tu, Gianni, mi hai sentito molte volte chiedere controlli. Qualche volta, raramente io chiedo controlli. Perché? Perché magari se voglio essere tranquillo e di uscire bene, cosa faccio? Accendo un'altra radio, mi metto le cuffie e mi ascolto. Poi può capitare che magari per questo ascolto non l'ho fatto, può capitare che sono riuscito male, e allora Gianni mi dice guarda che stai facendo male, e io subito sistemo. E invece ci sono delle persone che stanno a giornate intere manovrando i potenziometri e non riescono a sistemare. E questo è il discorso. Avanti Gianni. Io, vuol dire, in questo mese scorso vi ho rotto un po' le scatole per le antenne, ma ne stavo provando 3 o 4, volevo vedere qual è la più performante, ma qui sono andato alla mia, non ce n'è, come la Turbo 2001 di antenna per la macchina, poche ne ho visto, vabbè, là. Comunque qui sono arrivato al Gianni. No, ma quindi non ci sono problemi, capito? Potrebbe anche interessare, sai, se funziona meglio che stai usando, per carità. Non era esattamente quello il senso del discorso che stavamo dicendo, perché tu vedi, a forza di provare a destra e a sinistra, comunque poi hai ottenuto un risultato, oppure sei arrivato a una conclusione tecnica, che quell'antenna che ha preso è sicuramente migliore di tutte le altre che ha provato, e questo sicuramente può essere utile a tanti altri, perché nella sua esperienza avrei fatto un gradino di antenne per cui quella è un po' meglio, quella è meglio dell'altra e così via. E quindi il discorso non è inutile, capito? Ma giuro si riferisce a quelli che proprio vanno e peggiorano il giorno dopo, poi sono ancora peggiore e peggio, e ce ne sono tanti. Comunque io volevo fare una chiamata perché sono certo che c'è Marco, c'è Marco che sicuramente starà mangiando qualcosa, starà perlomeno cucinando. Marco dai, esci fuori, dopo che ci sei. Ovviamente per smentirmi non riprende. Avrò la bocca piena. Perché è dispettoso. Chiaramente si scherza, ci mancherebbe. Non so. Purtroppo è così. Vabbè, comunque. Facciano come credono, per me va sempre bene. Per me va sempre bene. Qualsiasi discorso che si fa va sempre bene, non c'è problema. Poi ognuno ragiona con la testa sua, poco fa l'abbiamo detto. E sarà anche giusto così. Però se uno ragionasse con la testa per non disturbare gli altri sarebbe meglio. Vabbè, avanti già. Vabbè. Chi tugava già che tu parli? Guarda, bisogna sopportare i figli. Io sono quello che dico, lascio vivere, certo che qui diventa un po' impertinente, preparato, voglio vedere se c'è differenza tra uno e l'altro, ecco, queste cose qua, ma non è che sia sempre meno. Vabbè, comunque ce ne sono, è vero, ragione di ce ne sono che chiedono molto spesso il controllo. Ho sentito quel signore di Portotone, come si chiama? Claudio. Caspita, la modulazione è bellissima, non sa che assomiglia oggi. Io lo assomiglio a Fabrizio, come timbro di voce. No, è quella è una persona, vabbè, è una persona adulta e va anche bene, non c'è problema. È sicuramente una persona squisita, non ci sono dubbi. Io l'ho sentito un paio di volte e mi fa piacere modulare con lui perché si è dimostrato una persona intanto competente, per cui mi fa piacere appunto chiacchierare con lui. Scusate che prendo il telefono, riprendi gli altri. Fa la magna la pizza. No, assomiglia secondo me alla buona anima di Torre Alberti, la modulazione. Sì. Comunque ad Alghero deve essere successo parecchio casino, deve essere, ha fatto tanta acqua e sono anche in difficoltà. Gianni, comunque quando ieri mi sono andato poi, non è che ci fosse roba interessante, mi sono portato dietro il ricevitore che ti dicevano, il Debian, quella radiolina che sicuramente conosci. Beh, lo sai che funzionava bene, nonostante fossi convinto che ci fosse molto QRM e molti disturbi, sentivo le modulazioni sia di Marco che sia di qualche altro con cui era in questo. Allora sentivo bene, orientavo un po' l'antenna a destra e a sinistra, che era telescopica, e andava bene. E in più, poi passando nelle frequenze basse, tipo 40 metri eccetera, si faceva abbastanza bene, sia da vicino ma anche qualcuno lontano. ma un po', insomma, un'ottima radiolina. All'epoca, oramai c'era una decina d'anni, credo. Ed è molto piccola, per essere un oggetto così piccolo va veramente bene. Tutto lì. Poi per i controlli si danno, certo con questi apparecchi è sempre più difficile, con questi LED che ti danno sempre la stessa cosa per tutti. Scusate, dai, non lo devo lasciare. Ciao, Giotta, grazie della chiacchierata, ci sentiamo magari domani. Ciao Gianni, ciao Tuni, anche a te, ci sentiamo domani probabilmente. Alle prossime, dai, ascolta, fino lì e chiudo, che devo scendere giù. Sì, allora, ciao Giulio, dai, buona carica quando la fai, grazie per il piccolo questione, avanti. Sì, hai indovinato, è arrivato la fine. Ciao Giulio, buona serata, alle prossime. Guarda, non so più neanche come mandartelo perché non sono fanatico del social, però è il Legend, se vuoi ti dico il modello, ma lo trovi perché era molto di più. Non so se lo vendono ancora. Il Legend, aspetta che mi devo mettere gli occhiali. Ah, ecco, vai, Legend. 1103 ed è uno di quelli che c'ha anche DSO, no? Per ascoltare le SSD, quindi va molto bene. Com'è il nome? Vegent con la D come domodossola, ecco, allora Delta, ecco, Golfo, ecco November, Degen. Il modello è DE1103. Se lo vedi, guarda quanto è piccolo, no, è proprio una radiolina piccola, vecchio stile, pure copre da 0 a 30, anche se c'ha le bande preprogrammate, no? Però tu lo puoi impostare come vuoi, perché devi premere un pulsante, puoi digitare tutta la specie di tastierina che c'ha e ti porta dove vuoi. E adesso lo Se ti riesci, io sento poco fa perché si sta avvicinando il temporale, guarda se c'è il prezzo di quello. era caduta la linea, perché con questo tempo, ma questi che si sentono, ne giocano a fermare questo, però non riesco a capire chi sono, perché sono molto molto bassi. Tu li senti già? Io ho passato le repeghe perché sentivo ma poco di splatter, ma appena adesso vado là con le repeghe. Io intanto arrivo alla fioccata tipica dei fulmini che stanno avvicinando, però intanto sento questa nuvolata che c'è, perciò magari sono da parte di solare o chissà in quale zona. L'hai provato? No, proprio non mi sta funzionando Google. D11003, no? Ho provato, ma non funziona Google. Aspetta una sigla, se la sigla è D11003. Se lo cerca Marco, lo trova subito. Viene effetto di ricerca. Dietro che c'è. Allora, hai finito di mangiare, c'è ancora i fornelli. Buonasera a tutti. No, oggi si è mangiato presto, però stavo facendo roba al PC, facendo backup di dati, sia in hard disk sia masterizzati su CD, perché tanto l'hard disk, come è già successo con uno, un istante prima funzionava, un istante dopo, puff, tutti i dati di anni persi. Quindi d'ora in poi doppio backup su hard disk e su DVD, dai, a vedere chi dura di più dei due. Buonasera a tutti, ho ascoltato di Striscio, ho sentito Gianni, te, Giulio c'è ancora? No, Giulio è andato via, tra poco devo andare via, sia perché anch'io via, sia perché si sta avvicinando questo temporale di si sentirà anche le scariche ogni tanto, e già perché devo ancora cenare. Infatti volevo dire, poco fa ho nominato, infatti ho detto sicuramente che Marco l'ascolto, ti ho passato il mic anche, ma non hai ripreso perché sicuramente in realtà poi magari è impegnato. Io il codice non utilizzo più il masterizzatore. Tanto è vero che anche le ditte non lo stanno più mettendo su molti apparati, perché ormai ci sono queste chiavette che costano 4 studi da 64 giga, da 128, a voglia che ne stanno i dati, a meno che non metti solo film, oppure le tue cose lì, quelle forme, sono paglia per farvi tutte, no, così è. Mai salvare porno, mai. Porno si vede in streaming o non si vede? No, più che altro si usano backup anche di roba di cellulare, centinaia, forse anche migliaia di PDF, di manuali di istruzioni, di certificati di conformità, foto, quasi tutte di radio poi, più di radio che di donne, è preoccupante questo, è molto preoccupante. Comunque ci sono vari problemi online. Un po' in tutta Italia, per esempio Roger K era offline per un bel po' stamattina, mi pare, e giorni prima c'era gente che si è ritrovata falsamente bannata, cioè andava a cercare il sito e risultavano bannati, invece no, un po' un casino, dai, le linee sono, sarà la pioggia. Gianni, riprendi. Ciao Marco, dai. A meno che, siccome c'è il computer qui davanti e di lato il baracchino, a meno che con le chiappe non abbia pestato il microfono come mi capita, ma sento il botto qua, come premo nell'altoparlante sento boom, quindi il 99% no, non ero io. Come la pizza, già me ne immagino. Non più di male. Vizioso. Ah? Come faccio? Ho letto. Non vedo il tonno tra poco. Yeah. Sì, è buono frutti di mare, a patto che siano freschi, perché in certe pizzerie li mettono sotto olio, sotto formalina, sotto aceto, non so cos'è, come li conservino. Oppure magari cioè, surgelati anche. Vabbè, surgelati passi, l'importante è che non ci mettano olio, aceto, formalina e altri fluidi. Così dai, se no perde tutto il sapore e prende sapore di oli vari, capito? Vai Gianfra. È probabile, però è meglio non saperle quelle cose a volte. Stavo dicendo a Gianni, infatti lo stavo cercando, che ieri notte quando abbiamo chiuso dopo il senato, tu eri ancora in radio e io ti ascoltavo con un ricevitorino della Regia, no? Il DE11, come si chiama? Adesso non lo dimentico, l'ho detto prima, 11 articoli. Ma io lo chiamo 1103, 1103, sì, 1103, DE1103. È una radiolina, che però c'è anche le CCD. Quindi dopo che ho ascoltato te sono passato anche in 80, in 40, e tutti da una soddisfazione. Quindi nonostante l'età, perché dovrebbe avere anche, non dico che sia vecchio, però con la stessa va veramente bene, un ricevitore da tenere in considerazione, soprattutto quando va al mare, quando vai così. E ti sentivo bene Marco, devo dire, sei una stazione abbastanza potente. E soprattutto adesso con 4 watt scarsi, 3 reali che il filtro me ne ruba uno, poi 50 metri di cavo ne usciranno 2 dall'antenna, seppure. Quella cosa non ero riuscito a farla però, a calcolare la, che poi basta vedere, c'è il dB. No, mi devo fare il calcolo, quanti dB perdono 50 metri di 213? E che ne so, se per esempio se sai che raddoppiando la potenza guadagni 3 dB, che ne so, 3 ne dà in perdita, quindi è dimezzata la potenza, poi è messa dall'antenna. Più gli spinotti, i bocchettoni, PL, che più o meno sono andati bene o male. E quindi poi ho notato una cosa, il 213 ogni tanto cede, per quanto lo salde bene, dopo un po' ti accorgi che tende a abitare e svettare. Boh, vabbè. E se poi prende colpi in carattere al PL, quindi salta magari la saldaturina e quindi da rifare, dai. Dove eravamo rimasti? Gianni sta andando a portare il cane e poi. Stavate dicendo prima il Degen 1103? Sì, quello lì lo sta cercando anche Gianni. Va bene. Comunque la perdita richiede dipende dalla frequenza, ovviamente più alta sarà la perdita, c'è fino al punto di non arrivare niente a te. Io con la Camilla ad esempio a 30 più, quindi erano 30 più 20, 50 metri in una testa e sotto l'antenna ci arriva ben poco, capite? Devi andare un po' su per avere oppure fare come ho fatto io, però ovviamente non tutti lo possono fare perché a parte i costi ma poi anche i problemi di montaggio, mettere il Ferroflex che è un tubo d'acqua praticamente e allora si inizia a ragionare, ecco, le perdite crollano, ci sono sempre ma non sono neanche da paragonare a una camiglia. Lo stai cercando il commento del Degen, vero? Aspetta Gianfra che non trovo lo smartphone, l'ho buttato da qualche parte, magari è caduto dietro il mobile. Vabbè, Marco, io è tardi, cavolo, dai, mi saluto, ciao, dai, io sono andato giù a portare il cane, buona serata a tutti, dai. Ciao Marco, ciao Gianfranco, non sono riuscito ancora a entrare con Google perché non mi fa entrare, dai, c'è qualche problema. Sono le 8, sì, dai con collegata alla centralina. Qua va tutto già. Mobile, mobile, telefonia mobile. Sì, il Degen carino, però... Aspetta. Ma è con la SSB questo o no? Pare di no. Sto sbagliando io. Uno era il Texun 660, questo fammelo vedere, perché ho... Che miseria. La sigla che ti ho detto io, 1103, cale SSB. Tramite una manopolina laterale, preme il pulsante sotto, si accende un led rosso, poi lo sintonizzi con una manopolina che non è nient'altro che un DSO, praticamente è esecutivo, che però funziona bene. Eia, qua la descrizione, mi fa tutta bassa risoluzione, hanno messo qua in domo, antenna esterna, vedo due jack, due prese jack di lato. Sì, SSB, ok, FM, MVLV, eccetera, eccetera. Eia, ma interessava Gianni quello? No, perché gli ho detto che sentivo a te anche altri, capito? Quindi anche sul modello gli ho dato tutto lì. Comunque va molto bene, è batteria, ce ne vanno credo 4, se non ricordo male, ricordiamo i 5. Ehi, mi pare, dunque, io ho preso, non so perché ho preso Texun, non so, avevo fatto prove. Non so, mi piaceva più l'estetica, ho preso quello lì tempo fa, e macchina con l'antenna veicolare HF, quella con le prese calcolate, non so se si dica così, riceveva gambe giù, bastava andare in zone un po' aperte, certo non in mezzo ai vicoli, ne prendeva bene senza anche QRM eccessivo, sentivi un soffio leggero, leggero. Perché alla fine, sai cos'è, questo SDR online, cioè ascolti, ma ascolti quello che c'è, che sentono da Roma, che sentono da Milazzo, peraltro Milazzo non risponde più, sembra disattivato il SDR online. L'SDR in casa devi dipendere dal computer, cosa inaccettabile, veramente inaccettabile. Quindi più volte avevo pensato di riprendere un ricevitore HF ma a basso livello, tipo il Texun. Solo che ascoltando anche gli SDR online c'è ben poca roba rimasta. C'è in 40 metri un mezzo mortuorio. Cioè io prima mi accontentavo persino di ascoltare i buon temponi a 7070. Che se solo contest, sicu contest, sicu contest, bla bla bla, segnale radio, ciao, se baci abbracci, non mi appassiono, dai. No, in questo periodo ci sono molti contest, anche stasera siamo pariti, però c'è anche gente che fa questo. Devo dire che o per il coronavirus o perché non sanno cosa fare, molti proprio impalantamenti stanno rientrando. Mentre invece sui ventimetri c'erano molti americani, ho visto. Certo, questo dipende dall'antenna anche, capito? Riprendi un attimo. Poi vabbè, io sono, cioè a me piace più la fonia, non né il CW doppio né questi modi digitali, fonia, il parlato. Anche al baracchino a me da sempre mi è sempre più piaciuto ascoltare che parlarmi. Metti un volume basso così tiene compagnia, anche poco fa certo non potevo seguire il discorso perché io praticamente ero sintonizzato qua, quando c'eri tu e Giulio e basta mi pare, già è entrato dopo. Mentre facevo roba avevo un volume un po' minimo e così dai, nei tempi morti qualcosina ascoltavo. Masterizzatore comunque sì, è vero, non li mettono nemmeno più, infatti il portatile, vabbè, io ne ho uno esterno della che mette solo il nome peraltro, sarà fatto in Cina, sarà di marca quella conosciuta, Asus, sì. Sì, ma tutto è fatto in Cina. Cina, oramai è una roba fatta da Intel, credo, poi magari anche quelli che fanno fanno in Cina. Quindi è difficile oramai dire non in cinese. Sì, Marco, oggi tocca a me andare via perché devo fare, devo mettere la forno a pizza, quindi non voglio saltare la cena, devo scappare via. Ci sentiamo alle prossime. Buona serata, buon pranzo quando lo fai, non so se lo fai di notte o al mattino presto. E poi domani non sono fuori sede, impegni familiari, quindi domani blackout totale. E io, Gianfranco, anche tu di pizza, mi sa che stanotte sul tardi pizza surgelata, vabbè, però c'è, è anche discreta così, cibo da mensa, dai. E che altro dire, Gianni, se ci sei ancora ti saluto, rinnovo i saluti, che anzi mi sono sfuggiti prima, dai, sono un po' fuso, è la verità, mi prende gli occhi il computer, non hai idea, guarda, non hai idea, poi sta peggiorando la vista all'occhio sinistro. L'occhio sinistro è messo abbastanza male e quindi vabbè, dai Gianfranco, sentiamo, buonasera, buon tutto, Giulio se si ascolta, no, sei già andato via anche tu, no. Ci sentiamo, ciao. Lo dice a me il computer, Marco, io ci lavoro e poi ci sto anche per altre cose, quindi tra lavoro eccetera mi faccio quanto saranno, stamattina va acceso alle 7, faccio il calcolo, alle 7, poi fino, insomma, a volte ci passano anche le 10 ore, tra lavoro e il divertimento. E poi quando è per lavoro, magari tante ore, mamma mia, una croce, guarda. Va bene, e poi la luminosità la devo regolare anche bassa, anche per lo smartphone, lo sai, mi dà fastidio la luminosità sparata dello schermo, cioè che sia una cosa bilanciata, giusta, c'è un amico che anche di notte in macchina mette tutto a manetta, lo smartphone, roba da bucare la retina, soprattutto se c'è tutte quelle chat o pagine che a sfondo bianco, se scegli lo sfondo bianco, cioè con quelle luminosità metti almeno il tema scuro, guarda, a me faceva proprio male agli occhi, una cosa terribile. Bene, dai, buona cena, buon tutto, ci sentiamo, ciao. Ok, alle prossime, andiamo a questo, ho fatto già, mi sembra.